benvenuti a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici di Radio Onda Rosa. Siete sintonizzati e sintonizzate sugli 87.9. Questa è la modulazione di frequenza di questa radio, attiva da quasi 40 anni, dal 1977. E sta iniziando Tracce di Cinema. È giovedì, sono le 15.07 e come ogni giovedì proviamo a fare questa trasmissione oggi con un po' di difficoltà. Siamo un po' così, siamo un po' prostrati, un po' stanchi sia io che Federico, però il film è bellissimo, la musica anche, quindi parleremo un po' di meno. Meglio per voi che ascoltate, sentiremo un sacco di musica. Siamo nel 1995, il film è Strange Days, un film di fantascienza prodotto, scritto da James Cameron e Jay Cox, per ricordarvi che Jay Cox è autore anche di sceneggiature importanti come Gangs of New York e L'età dell'innocenza. La regia è curata dall'unica regista donna premiata agli Oscar, Kathryn Bigelow, grandissima. Lo spunto di partenza è costituito dai disordini del 1992, seguiti al pestaggio e all'uccisione di Rodney King da parte di quattro poliziotti, quindi niente di nuovo. Si parla come ieri, si parla anche oggi delle stesse cose, e racconta una storia che ha come location Los Angeles nelle ultime ore del secolo. Vi ho detto tutto o quasi, qualcosina magari ne parleremo anche dopo. Se siete pronti a entrare nel sound del terzo millennio pensato da Peter Gabriel e Graham Revell per questo film, restate all'ascolto e alzate il volume. una versione di Strange Days dei Doors completamente stravolta, una versione targata Prong, no Ottavia? Sì, una band che fa musica industrial e metal americana, che si è formata nel 1986, inizialmente Tommy Victor e Ted Parson, poi ci sono stati un sacco di avvicendamenti e insomma la band ha cambiato radici, non suoni, ma insomma membri del gruppo si sono avvicendati, sono apparsi, scomparsi, tornati e andati. Questo brano, appunto Strange Days, che loro hanno, come hai detto tu giustamente, stravolto, ma a me piace molto la versione hardcore. Fa parte dell'album dei Doors pubblicato nel settembre 1967 e chiaramente è il titolo anche del nostro film, e la nostra scaletta musicale non poteva che cominciare così. Lords of Acid con Drink My Honey. Bellissimo pezzo, soprattutto gli ultimi 50 secondi mi sono piaciuti tantissimo. Questa è la musica che fa per me in questi momenti di terrore del presente. Loro sono un gruppo belga, sono grandissimi, tecno, elettronica, industriale, in attività dal 1988. Sono il più rappresentativo di questo paese nell'ambito appunto di questo genere musicale. Hanno venduto parecchio, più di 3 milioni di copie dei loro album. Praga Khan in arte, Maurice Engren è il suo nome vero. Oltre insomma a far parte di questo gruppo, ha anche intrapreso una carriera solista che riesce a mantenere nonostante il progetto insomma musicale dei Lords of Acid. E per quanto riguarda invece questo film, posso dirvi che ha avuto un budget di 42 milioni di dollari e gli incassi di 7 quasi insomma 8 milioni, insomma non ha avuto un grande successo di pubblico, stranamente. È costato tantissimo e ha guadagnato poco, ma è stato poi molto rivalutato nel tempo sia dalla critica che dal pubblico. È stato molto amato anche perché è diciamo proprio un film che sul filone insomma ha delle caratteristiche molto particolari. È un film un po' cyberpunk anche per la colonna sonora che si svolge, no? I brani accompagnano tutte le scene più importanti, più forti del film, e devo dire che sono sempre abbastanza giuste sia per quello che descrivono che insomma che per il filone narrativo della pellicola. E la Bigelow, secondo me, che nasce come artista e come fotografa, quindi aveva tutt'altro interesse che fare il cinema, è una grande, con questo film proprio conferma la sua capacità di fare film d'azione. Poi prende spunto da tante altre cose, insomma ci sono i fumetti oltre che la musica, e anche spunti che vengono dal cinema e di altri tempi, e anche dalla letteratura, ma insomma poi ne parliamo via andando con la trasmissione. sta sfumando Deep Forest con Coral Lounge. Anche Federico va un po' sfumando. Io vado proprio sfumando. E questo pezzo io lo dedico a due ascoltatori che ci hanno fatto sapere di essere sintonizzati sulle frequenze degli 87.9 di Radio Onda Rossa. Ciulzu e Simona, ciao. Buon ascolto con il prossimo pezzo. ocean. Orange is the color of my revolution. Orange is the color of my revolution. Orange is the color of my revolution. Orange is the color of my revolution. Orange is the color of my revolution. Orange is the color of my revolution. Strange Fruit con No White Clouds, che ci portano all'ospite di questa settimana, che è Andrea Gozzi. Benvenuto a Tracce di Cinema su Onda Rossa, Andrea. Buongiorno, salve. Tutto bene? Tutto molto bene, grazie. Allora, il film, tra l'altro, è una tua proposta e noi ne siamo ben lieti. Intanto ti chiedo, Andrea, come mai questa scelta immediata per questo film? Allora, perché è un film a cui sono sempre stato molto legato, in realtà, e ho sempre piaciuto il film stesso, anche se a distanza di anni è molto anni 90, nel senso che sono alcune scene forse anche un po' troppo fracassone, molto colorato, però rimettendolo appunto nel contesto di quegli anni ci sta tutto, anzi è proprio un manifesto di quel periodo. E siccome in quegli anni di musica rock e non solo ce n'era tanta in giro e anche molto bella, la colonna sonora è un po', diciamo, il manifesto di questo. Dentro c'è davvero un po' di tutto, e la scelta di questo film è interessante perché quando uscì nel 95 raccontava di un ipotetico capodanno del 2000, appunto a cavallo tra il 99 e il 2000, a Los Angeles, in cui succedono delle vicende. Le vicende sono queste: c'è un rapper famosissimo di colore afroamericano che si chiama Jericho One, che viene ucciso da probabilmente non si sa ancora, poi si scopre perché non ho visto il film, non andrebbe detto, però insomma da dei bianchi, ecco, salviamoci in questo modo. E quindi ci sono degli scontri razziali, cose insomma non sono poi così lontane da un futuro prossimo, in questo senso, anche perché se diciamo insomma cosa succede sulla cronaca statunitense, ahimè, sono di un'attualità cosciente. Intorno a questo gira un po' tutto il film relativo ad una sorta di nuova droga che si chiama Squid, oggi fa un po' sorridere vederla così, perché sono una sorta di lettore CD o lettore DVD portatili che si collegano direttamente alla corteccia cerebrale e permettono di vedere o meglio sentire le emozioni di un'altra persona. Quindi ad esempio stare con una bella ragazza, vivere un tentativo di furto. Ci sono alcune invece che si chiamano blackjack, in cui diciamo sono una sorta di snuff movies in cui il protagonista che porta questo dispositivo muore, quindi sempre rivivere fondamentalmente le emozioni di altre persone. Questo ce lo fa un po' ridere oggi, perché vedere appunto CD con un supporto fisico in questo senso già rende datato il film, però in ogni caso appunto è una fantascienza prossima, molto legata ovviamente con l'immaginario caotico metropolitano a quello riconducibile a Blade Runner e a Fini, insomma, quindi colori molto scuri, anche l'abbigliamento dei personaggi, seppur anni dopo ovviamente, però va in quella direzione. E quindi c'è questo clima ormai di catastrofe imminente, si può chiamare così, in cui però l'unica possibilità per salvarsi è l'amore. Infatti poi finisce con questo abbraccio il film, è il capodanno appunto del 2000, chissà, magari partirà qualcosa di differente. In tutto questo appunto c'è una colonna sonora che martella continuamente, e esattamente come nel film vi sono appunto delle storie differenti che si intersecano di episodi, ma soprattutto di varietà umana. Quindi sono personaggi fantastici, c'è il metallaro diciamo decadente, che più o meno decadente, che sta all'interno di un palazzo, che è il capo di questo, il proprietario di un'etichetta discografica di un locale che si chiama Retinal Fetish, ovviamente perché lo squid, appunto questa droga particolare, si fa attaccando questo meccanismo appunto agli occhi e alla testa. E poi ci sono altri personaggi, invece sono un misto tra personaggi di fantascienza, trucchi, rasta, vari tipi di culture mescolate. E lo stesso succede all'interno della musica. Non è soltanto la musica rock che predomina all'interno appunto della colonna sonora, ma troviamo anche altre cose. Quindi world music, ci sono ad esempio Deep Forest che fanno un pezzo bellissimo con Peter Gabriel, c'è alcuni accenni etnici in questo senso, musica tecno e musica elettronica. Quindi è diciamo una sorta questo film vuole rappresentare appunto il futuro, in realtà rappresenta benissimo il periodo in cui è stato fatto, sì, sia dal punto di vista dell'immagine che dal punto di vista della musica. Senti Andrea, una colonna sonora ricchissima, almeno 30 brani, che tu sappia è una scelta legata strettamente a Katrin Bigelow? Dunque, esattamente, anche perché se noi andiamo a vedere chi canta in questi brani, sono tutti gruppi profondamente femminili, dove l'elemento femminile è fondamentale, non a caso appunto lei è una regista. Di solito il rock, o comunque la musica rock in generale, fondamentalmente maschile, non dire maschile, insomma i gruppi principali in questo senso più famosi sono composti da uomini. In questo senso invece è differente, a partire dalla, se noi prendiamo la tracklist della colonna sonora, il primo nome che abbiamo del gruppo più famoso appunto che suona all'interno di questa colonna sonora sono gli Skank and Nancy, capitanati da Skin con Selling Jesus. Nel film tra l'altro sono presenti, suonano, non dal vivo, verso il finale, proprio alla festa del Capodanno, con Skin con questa croce bianca sul viso, con una luce che esce tra l'altro dalla cassa della batteria, quindi un impatto diciamo visivo anche molto forte, usando appunto Selling Jesus, vendendo Gesù. La seconda invece The Lords of Acid, il brano The Real Thing, anche questo è un gruppo composto per la maggior parte da donne, nei Deep Forest lo stesso, il brano che è passato prima che è il mio preferito della colonna sonora, che è No White Clouds, Strange Fruit, è cantata appunto da una ragazza. Ma diciamo così, le due figure femminili più importanti in questo film sono principalmente due, rappresentano una sorta di antitesi dell'amore provato dal protagonista Ralph Fiennes, Lenimir, ovvero Eros e Agape, quindi un amore diciamo edificante, rappresentato da Angela Bassett e Lornet, e un amore invece distruttivo, un Eros tremendo che lo porta appunto a ricordare il passato tramite questa droga, appunto, che lui ha i momenti più belli appunto della sua vita che ha passato con questa ragazza, e non c'è più questa relazione, e se le rivive appunto come una sorta di torno indietro nel tempo. E in questo senso appunto chi rappresenta invece l'Eros distruttivo, decisamente in questo caso gli omicida, è Juliette Lewis, che fa questo personaggio Faith, che è una cantante rossa, appunto di un rosso estremo nei capelli, che canta a casa nel locale del suo compagno, e mette la fetish appunto, e canta due brani, sono Hardly Wait e di PJ Harvey, e ancora sempre di PJ Harvey invece appunto un altro brano, quindi fondamentalmente Ridomi. Sempre all'interno di questo sì. Sempre all'interno del film, quindi anche qui abbiamo ancora una volta un personaggio femminile, sì, sia appunto lei che lo canta, sia il brano che è cantato, quindi ancora una volta più girate. In questo senso appunto porta quindi questa figura appunto di cantante sul palco, è fondamentale sia per il film, poi all'interno della colonna sonora, non a caso sta proprio a metà della tracklist. Senti, sicuramente una bizzarria Juliette Lewis che interpreta due brani di PJ Harvey, anche se niente a che vedere con gli originali, secondo il mio punto di vista. Certamente, poco ma sicuro, però ha comunque un particolare fascino, nel senso che Juliette Lewis, che a me rimaneva molto più simpatica prima della sua entrata in Scientology, non so come si dice, però fondamentalmente così, insomma, lì ha comunque una figura interessante, perché è una rivisitazione che non vuole essere assolutamente come l'originale, piuttosto sgraziata, un po' sgolata, siccome ho sempre avuto un po' di interesse verso il punk in generale, soprattutto verso un modo diretto di eseguire alcuni tipi di cover, non è assolutamente paragonabile all'originale, anche perché ovviamente il genere della scritta, però è sicuramente interessante. Per alcune persone del periodo fu una chiave anche per conoscere poi i girati. Tra l'altro noi la ricordiamo piacevolmente per il film con Woody Harrelson, esatto, di Oliver Stone, Natural Born Killers, che ha una bellissima colonna sonora. È stato anche un film importante per il periodo, con tanti diversi linguaggi cinematografici assemblati insieme. È stato un bel momento quello di quella puntata. Andrea, sei anche curatore della serie dei tre libri Appunti di Rock 1, 2 e 3, che ho avuto modo di vedere perché c'è stata una presentazione estiva all'interno di Festa Ambiente negli ultimi 3 anni. Ce ne parli un po' di questa bella avventura? Sì, dunque, questi sono Appunti di Rock, nasce come una storia del rock, ma non una storia del rock una storia del rock che va a prendere alcuni gruppi, alcuni autori e li racconta presi da un preciso taglio, restringendo quindi il campo ad un qualcosa di specifico. Ad esempio, una canzone, due punti, si parla di una canzone di quel gruppo, oppure ad esempio si parla di un album di quel gruppo, si parla di un concerto di quel gruppo e così via. In questo modo, con questi contenitori, è possibile restringere il campo, e più si restringe il campo è possibile più approfondire ovviamente l'argomento, come in tutte le ricerche. Quindi in questo caso abbiamo parlato ad esempio nel primo volume del concerto di Altamont dei Rolling Stones, abbiamo parlato della canzone nei 3 volumi, Who Not Love delle Zeppelin, un'indagine musicologica, nel secondo volume invece abbiamo parlato di Tonight Tonight dei Smashing Pumpkins, con un'indagine invece più ampio raggio sul periodo, cosa succede tra il 95 e il 96 all'interno della musica, che è un periodo importantissimo in cui gruppi si formano, altri gruppi si mettono a suonare. E poi invece nell'ultimo abbiamo parlato di ancora altre cose, quindi di Who. In questo senso ci permette di affrontare alcuni argomenti, macro argomenti che sarebbero giganteschi, restringendo il campo. In questo modo è possibile dare un taglio ben specifico. In questa direzione volevo però che lì suonassero in maniera diversa, nel senso non avessero mai la stessa voce, come se fosse una sorta di compilation da leggere. In questo senso, quindi, essendo musicista e musicologo, mi sono un po' guardato intorno e io ho arruolato tutta una serie di personaggi che fanno parte del mondo della musica a vario titolo: musicisti, giornalisti, professori di conservatorio e così via. In questo modo da dare, appunto, già scegliere argomenti differenti, tagli differenti, voci differenti, per rendere ancora più chiaro come la materia farà apparire il rock come una materia eterogenea. E lo stesso questo libro, appunto, è decisamente in questo senso. È una compilation delle leggi, fondamentalmente. Si può skippare quindi da un capitolo all'altro rispetto a quello che ci interessa. Non è appunto una vera e propria storia del rock, in questo senso ne esistono tantissime, ma sono delle istantanee storiche ben precisi su alcuni periodi, alcuni artisti, presi da un taglio particolare. Senti Andrea, le collaborazioni come sono nate rispetto alla, appunto, a queste compilation che compongono ogni volume? Dunque, fondamentalmente, appunto, essendo musicista e musicologo, mi ritrovo circondato da tutta una serie di personalità differenti che vivono la musica in maniera differente. In questo senso ho provato in alcuni casi ad andare già dove sapevo che avrei trovato, appunto, un riscontro interessante. In che modo? Sapendo ad esempio che quel professore in conservatorio, il docente, aveva già pubblicato un materiale, appunto, inerente all'argomento, sono andato a chiedere ad esempio Lelio Camilleri, docente al conservatorio di Bologna in musica elettronica, un capitolo dedicato ad un album che è L'Aston Inaspic dei King Crimson. Infatti poi è arrivato tutto uno dei saggi più accademici, in questo senso una voce decisamente accademica. Altri invece sono stati portati avanti con una sorta di gioco. La carta è sempre lasciata bianca, appunto, all'autore, però si cerca, appunto, di spostarlo su alcune cose particolari. Ad esempio, Giulia Sarno, che è cantante del gruppo di Un Passone, autrice dei brani di questo gruppo, ha parlato ad esempio nel secondo capitolo, con un ottimo intervento di Lou Reed, dei testi di Lou Reed. Quindi in questo senso il concept di quel capitolo era i testi, e ne è portato avanti, avendo fatto degli studi sulla poesia in musica, che abbiamo affrontato anche nel primo volumi di appunti di rock, con le raccontava appunto questo, raccontava di Lou Reed, l'importanza dei testi di Lou Reed, cosa voglio dire alcuni testi, non tanto la traduzione e non tanto la spiegazione del testo, quanto cosa c'è alla base e se si può definire veramente un artista rock, un poeta. Questo ovviamente non ve lo dico oggi, se appunto andiamo a cercare i tuoi libri e... In questo senso, ecco, in chiusura, Andrea, ci lasci dei riferimenti web per saperne di più? Certamente, dunque abbiamo una pagina su Facebook che si chiama facebook.com/appuntidirock, in cui oltre alle informazioni sulle presentazioni e incontri radio, come quello abbiamo fatto oggi, pubblichiamo ogni tanto anche qualche piccola recensione di concerti e notizie generali. Quindi è, diciamo, oltre ad essere appuntidirock un libro fissato su carta, è un qualcosa che comunque vive sulla rete grazie ai contributi di tutta una serie di persone. Quindi su facebook.com/appuntidirock potete trovare appunto le informazioni sul libro. I libri sono reperibili in libreria ovunque e su tutti gli store online, quindi da Amazon in giù. Andrea, è stato un piacere, speriamo di risentirci presto. Piacere mio, molto volentieri. Ok, alla prossima, ciao Andrea. Buona ciao. Serata, alla prossima, ciao, ciao. Only war, war, war will end it. Our lives are all we have to give. If you can't die, die, you're never gonna live. From Africa, said that's the way to fix me. But I want the retribution, revolution to get me. I got my fucking gap, ain't whistling no Dixie. Like Baba Dubow, Baba Dubow, Baba Dubow. To my ancestors, you bow. Hey, I want my freedom now. And I ain't doing no talking, I'm stalking today. You don't keep your peace treaties in their way. An eye for an eye, a tooth for a tooth. Now how many eyes and teeth do you think I lost? Tell the truth, my proof. The fight is in my sight tonight. I watch the whites feel delight from my second class life. But the land without the first class, the second class is right, so I'm eliminating those that think they wanna fight. You might try me for capital crimes, they'll read them. Murder, death, sentence, freedom, death to me. Will make me free. So don't throw Martin Luther King in my face. His dreams, no reality, fatalities the case. You took away my dignity, I forgot about who I was. But I never had a dream, cause life is something that I think we can no longer share. My life is a nightmare. Death is something I don't fear. America's been my boogeyman for 400 years. Death to me. With force. I'm the messenger of storms to come. Go on, your son. Your finest flight of drinks where I brung the verdict. Like you, he was guilty. I find you wretched and weak. Your evil sees your filthy, but still weak. Got to go through the motions. I accuse thee of being like a devil in the first degree. Let's see. Is you still the land that you're on? And is my red brother nearly gone? Take my ancestors from their home. Built a fucking nation on their bones. Atomic pain on the yellow man. Poison in the air and the land. Narcotics and disease from your hand. No, I can't seem to understand. Death to me. Here we did it come. Death to me. Here we did it come. Death to me. Here we did it come. Here We Come, movie version, giusto Ottavia? Sì, bellissima, sono bellissime le parole, dovreste provare a cercare il testo di Here We Come. È un pezo di Mi-Fi Mi, che è un rapper americano attivo dal 1988, ancora oggi scrive e suona e canta, e ha composto questo tema per accompagnare una serie, la scena di Jericho One, in cui c'è appunto questo grande schermo in cui appare nel film. E di nuovo del film, io mi sento un po' alla testa come se mi fossi fatta di Squid. Io sto proprio appoggiato al microfono. Che Federico si effetti deve essere fatto di Squid. È un bel film sottovalutato. C'è un'area di apocalisse costante, un po' come quella che si sentiva quando si parlava, no, della fine del millennio, insomma. Ed è così attuale nell'essere, come diceva Andrea, un film vecchio, insomma, degli anni 90, è così attuale nelle sue tematiche, soprattutto politiche. Per esempio, la feroce critica che fa nei confronti della polizia, che nel film è violentissima e che lo è anche nella realtà, dei presagi di malessere nella comunità afroamericana. Beh, insomma, un film datato che però porta in sé il seme di qualcosa che è molto attuale. Tricky con Overcome. Sì, dall'album Maxine Quay, album che lui ha intitolato così per ricordare la mamma suicidatasi quando aveva 4 anni. Tricky ha avuto un'infanzia complessa, difficile, e fin quando non ha incontrato i Massive Attack, aveva 18 anni e diventa Tricky the Kid. Era il 1990, non capiva niente di musica, così almeno dice lui. Ha imparato a programmare tastiere incasinandone una oltre ogni limite. I fonici dicono che lavora alla rovescia, ma è solo perché non capisco cosa significhi fare le cose nel modo giusto. Non so leggere uno spartito e l'ultima cosa di cui ho bisogno è imparare a farlo. E beh, insomma, non ha avuto bisogno di imparare a farlo, perché la musica la sa fare lo stesso, anche e soprattutto grazie a una persona, a una donna che lo ha accompagnato in questo suo percorso musicale, Martina Topley Bird, che lui ha conosciuto nel 1991, aveva soltanto 18 anni, e insieme hanno firmato hanno inciso un pezzo bellissimo che si chiama Aftermath, che poi è stato rifiutato addirittura dai Massive Attack. E poi si sono separati, lui ha continuato a fare musica per conto suo, è diventato una celebrità, le rock star hanno fatto un po' a botte per far qualcosa, insomma, per produrre qualcosa con lui. Parliamo di Björk, Madonna, Damon Albarn, i Garbage, insomma tutti quanti hanno cercato di collaborare con questo folletto nero un po' pazzoide. E invece di questo film ancora qualche breve notizia. Allora, vi ricordate che Nanni Moretti nel suo film Aprile del 1998 va al cinema con la moglie che è incinta, e le dice dopo la visione del film non si dà pace per aver fatto vedere al figlio non ancora nato un film che definisce una cazzata memorabile. Ma insomma, questo è Nanni Moretti e va bene, anche è divertente anche la sua così piccola polemica. Invece non è una cazzata memorabile, Stranger, è un bellissimo film ed è straordinario anche la tecnica di regia che ha usato Kathryn Bigelow, che insomma di regia ne sa forse anche più di Nanni Moretti. È riuscita infatti a creare questi lisergici viaggi mentali, questi trip che si fanno attraverso questa macchinetta che si mette in testa e fa vivere le emozioni vissute da altre persone attraverso l'invenzione di una nuova piccola cinepresa, piccolissima, leggera, leggerissima, da 35 mm, che viene usata come una steadicam, però viene messa proprio di fronte agli occhi, quindi è proprio stata creata apposta per girare questo film, e ci è voluto un sacco di tempo, e devo dire che sono stati bravi i tecnici, il direttore della fotografia e Kathryn Bigelow, che ha avuto questa intuizione di creare una sorta di occhiale attraverso il quale si potevano riprendere delle scene, perché poi la soggettiva che si riesce ad avere, insomma il risultato, la soggettiva che Kathryn Bigelow riesce ad avere per il film è effettivamente quella giusta, e fa impressione anche soprattutto la scena iniziale, quella della rapina, quando, insomma, ai tempi, anche forse adesso è un po' datato anche questo, però ai tempi, quando insomma uno entrava al cinema e si sedeva e vedeva questa scena, rimaneva spiazzato, perché era una soggettiva, un modo di girare veramente molto innovativo. Ne parlavamo prima, Hadley Waite di PJ Harvey, interpretata da Juliette Lewis. Interpretata egregiamente da Juliette Lewis, vorrei aggiungere, attrice, cantante, apparsa in oltre 40 film, ha lavorato spesso anche per la televisione, ha collaborato insieme a molti artisti della scena musicale, Daft Punk, i Prodigy. È stata candidata all'Oscar come migliore attrice non protagonista nel 92 perché Fear, e ha creato due gruppi, i Leaks nel 2009 che poi si sono sciolti, e i New Romantics. Ha collaborato per la colonna sonora anche del Corvo, sai Fede? Non l'avevamo... non sapevo. Ah no, però per il Corvo 3, sì. Non per il Corvo che abbiamo fatto noi, e in una canzone che si chiama Salvation. E poi ha collaborato con Linda Perry e tantissimi altri artisti, insomma secondo me se la cava egregiamente. Ci stiamo avvicinando alla fine, come direbbe il mio buon compare qua accanto, che è malatino oggi, piccino. Stiamo arrivando alla fine della trasmissione, stiamo per chiudere. Io vi ricordo che è un po' di tempo che non lo faccio, un paio di puntate che ho dimenticato di farlo, che potete sottoscrivere a questa radio che sta per compiere i 40 anni attraverso il conto corrente postale 61804001 intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Voci 5600185 Roma. Chi può faccia un dia il suo contributo a questa radio, perché continui a resistere a lottare insieme a voi. Saluto con un affetto particolare tutti coloro e tutte coloro sono private della loro libertà personale. Fede? Direi che l'indirizzo di posta elettronica è tracce di cinema@ondarossa.info, e che ci sentiamo giovedì prossimo sempre dalle 15 alle 16. Sì, ci lasciamo con un brano sempre di Strange Days, che è? Gli Scancanensi con Feed.